Giovedì 15 e venerdì 16 settembre presso il Parco della Montagnola si terrà un festival, una due giorni, per la presentazione di alcuni degli artisti di una etichetta molto importante sul territorio bolognese. Hai voglia di parlarcene? Beh, ti ringrazio per il molto importante, direi, per un'etichetta giovane, perlomeno giovane nel senso di nata da poco, e sì, bolognese, e questo confermo. Abbiamo deciso di fare questa festa perché in realtà, appunto, compiamo il Nident, diciamo, come entità, compie i primi due anni, grosso modo. Adesso, come tutte le cose, non abbiamo una data precisa di fondazione di Nident, ma sappiamo che insomma il nostro lavoro con questo marchio è nato attorno al disco di Raresh, che insomma è uscito a marzo del 2020, in un'epoca che ricorderete un po' particolare. Quindi insomma sono passati due anni e mezzo dalla nascita di questo marchio, e adesso insomma si è creato un piccolo roster, un piccolo catalogo che ci piaceva l'idea di presentare dal vivo qui nella città dove viviamo e dove lavoriamo. Un'etichetta molto giovane che offre anche una proposta musicale molto giovane, e diciamo che questa sarà anche la proposta della due giorni. E voglia di raccontarci chi ci sarà a occupare le giornate nel Parco della Montagnola tra il 15 e il 16. Giovane e fresco sono i due aggettivi che potremmo insomma cercare di adattare al nostro roster, cioè di adottare, non adattare. Per cui il 15 settembre avremo nell'ordine T. Vernice, un cantatore torinese che è uscito con alcuni singoli, un EP proprio tra il 2021 e questo inizio del 2022, questa prima parte del 2022, sempre da Torino, per cui c'è questo, diciamo, liaison con il capoluogo piemontese. Ci saranno Daobab, e a chiudere un quartetto invece più, diciamo, identificato come bolognese, anche se non tutti sono proprio bolognesi, i Westfalia, che già avete potuto vedere l'anno scorso nella scorsa edizione di X Factor. Alcuni di voi si ricorderanno per quelli, spero che invece la maggior parte di voi se li ricordino, perché sono veramente un gruppo molto molto interessante, soprattutto dal vivo. Il 16 settembre invece aprirà Clemente Guidi, e vincitore del uno dei due vincitori del concorso Music is the Best, che è sempre organizzato da noi di Panico Concerti, della nostra piattaforma, diciamo, di scouting, con la quale noi intercettiamo i nuovi talenti musicali, i Sobeast, che tra tutti sono quasi un'istituzione, e poi Raresh, che appunto è il primo di questi artisti che abbiamo prodotto sotto questo marchio. Alcuni di questi artisti sono accomunati al fatto di essere stati, diciamo, intercettati proprio con il concorso Music is the Best, o col progenitore freschissimo, che era il concorso legato a Tutto Molto Bello. Quindi l'etichetta nasce anche attorno proprio con questa vocazione, diciamo, di opera prima di nuovi talenti, e quindi quasi tutto quello che noi stiamo pubblicando è veramente un esordio. Tanti esordi, come dicevi tu, musica giovane, musica fresca. Quali sono, oltre a queste caratteristiche, un po' linee guida di questa etichetta? Perché mi sembra che comunque i vari artisti, seppur si contraddistinguono molto nei generi, comunque hanno un fil rouge che li mette un po' insieme. Ma sì, diciamo, il roster è sicuramente un roster eclettico, per cui, come succede attualmente, l'ascoltatore musicale medio è un ascoltatore sempre più, diciamo, bersagliato da proposte musicali di vario tipo, sempre meno settoriale, specializzato, proprio perché la stessa fruizione, modalità di fruizione principale che si ha della musica, che è quella in streaming, ha tanti pregi e alcuni difetti. Un pregio è sicuramente quello di metterti in contatto con tante cose differenti, per cui noi insomma in qualche maniera abbiamo interiorizzato questo mood, quindi non c'è un dato musicale medio che accomuna queste proposte. Per noi rappresentano una maniera originale e interessante di approcciarsi, per esempio nel caso dei Westfalia, più al movimento del new funk in qualche maniera, o nel caso di Raresh a un cantautorato che, come noi sappiamo, noi che insomma stiamo ascoltando un po' i nuovi dischi, si sposta, cioè in costante, per cui in cui la matrice è proprio soltanto lui e la sua voce, ma che insomma alla quale fa abitare mondi musicali diversi, e così vale un po' per tutti. Poi, essendo, mi dico, progetti molto giovani, spesso all'esordio o prima dell'esordio, come per esempio Clemente Guidi, che sicuramente ha un talento pop non indifferente, Sono anche progetti che negli anni vedremo crescere, mutare, cambiare. Questo è quello che poi ci auguriamo, che crescano, che mutino pelle, che cambino, che ci sorprendano, così come insomma già sta facendo Rare, cioè come stanno facendo i suoi Beast. Parlo di due progetti che sono magari nel roster da un pochino più di tempo e che stiamo vedendo proprio evolversi dal punto di vista della loro capacità musicale, capacità di esprimersi, capacità di dire cose nuove, cose diverse da quello che hanno detto precedentemente. Gianluca, io ti ringrazio, chiaramente invito anche tutte e tutti il giovedì 15 e venerdì 16 alla festa di Nident al Parco della Montagnola. Grazie mille. Perfetto, un saluto a tutti e grazie mille per lo spazio.